Andarono a trovare i gemelli al collegio. Era la prima volta che si incontravano dopo il terremoto ed ebbero la sorpresa di constatare che l'unico luogo del territorio nazionale che non era stato toccato dal cataclisma era il vecchio collegio, dove l'avevano completamente ignorato. Lì i 10.000 morti erano passati senza pena né gloria, mentre loro continuavano a cantare in inglese e a giocare a cricket, sensibili soltanto alle notizie che giungevano dalla Gran Bretagna con 3 settimane di ritardo. Stupite videro che quei due ragazzi che avevano nelle vene sangue di Mori e di spagnoli e che erano nati nell'ultimo angolo dell'America parlavano castigliano con l'accento di Oxford e che l'unica emozione che erano capaci di manifestare era la sorpresa sollevando il sopracciglio sinistro. Non avevano niente in comune con i due monelli esuberanti e pidocchiosi che passavano l'estate in campagna. Spero che tanta flemma anglosassone non me li faccia diventare idioti, balbettò Clara, separandosi dai figli. La morte della nana, che malgrado i suoi anni era la responsabile della grande casa dell'angolo in assenza dei padroni, aveva provocato lo sbandamento dei domestici. Senza il controllo avevano abbandonato le loro incombenze e trascorrevano la giornata in un'orgia di sieste e di pettegolezzi mentre le piante si rinsecchivano per mancanza di irrigazione e i ragni passeggiavano negli angoli. Il deterioramento era così evidente che Clara decise di chiudere la casa e di licenziare tutti. Poi si immerse con Blanca nel compito di coprire i mobili con lenzuola e di mettere naftalina dappertutto. Aprirono a una le gabbie degli uccelli e il cielo si riempì di pappagallini, di canarini, di cardellini e di allodole che svolazzarono riconfortate dalla libertà e infine intrapresero il volo in ogni direzione. Blanca notò che durante tutti quei lavori non era apparso alcun fantasma dietro le tende, non era sopraggiunto alcun rosacroce avvertito dal suo sesto senso, né poeti affamati chiamati dalla necessità. Sua madre sembrava essersi trasformata in una signora comune e campagnola. È molto cambiata, mamma, osservò Blanca. Non sono io, figlia, è il mondo che ha cambiato. Rispose Clara. Prima di partire andarono nella stanza della nana, nel cortile della servitù. Clara aprì i cassetti, tirò fuori la valigia di cartone che la brava donna aveva usato per mezzo secolo e ispezionò l'armadio. C'erano solo alcuni indumenti. Vecchie ciabatte di corda e scatole di ogni dimensione legate con nastri ed elastici, dove lei conservava cartoncini della prima comunione e del battesimo, ciocche di capelli, unghie tagliate, ritratti sbiaditi e qualche babbuccia da bebè consumata dall'uso. Erano i ricordi di tutta la famiglia del Vaie e poi di quella dei Trueba che erano passati fra le sue braccia e che lei aveva ninnato sul suo seno. Sotto il letto trovò un fagotto con i travestimenti che la nana usava per spaventare il suo mutismo. Seduta sul letto con quei tesori in grembo, Clara pianse a lungo quella donna che aveva dedicato la sua vita a rendere più comoda quella degli altri e che era morta sola. Dopo aver tanto cercato di spaventarmi, è stata lei a morire di spavento, osservò Clara. Fece trasferire il corpo al mausoleo dei Del Valle nel cimitero cattolico, perché aveva pensato che non le sarebbe piaciuto essere sepolta con i protestanti e gli ebrei e avrebbe preferito rimanere da morta vicino a chi aveva servito da viva. Mise un mazzo di fiori vicino alla lapide e se ne andò con Blanca alla stazione per tornare alle Tre Marie. Durante il viaggio in treno, Clara mise sua figlia al corrente delle novità della famiglia e della salute di suo padre, sperando che Blanca le facesse l'unica domanda che sapeva che sua figlia aveva voglia di farle, ma Blanca non accennò a Pedro Terzo García e neppure Clara osò farlo. Era l'idea che dando un nome ai problemi, questi si sarebbero materializzati e non sarebbe più stato possibile ignorarli. Invece, se si fossero mantenuti nel limbo delle parole non dette, avrebbero potuto scomparire da soli col passare del tempo. Alla stazione li aspettava Pedro II con l'auto e Blanca si sorprese sentendolo fischiettare per tutto il tragitto fino alle Tre Marie, perché l'amministratore aveva fama di uomo taciturno. Trovarono Esteban Trueba seduto su una poltrona tappezzata di felpa azzurra, cui avevano sistemato ruote da bicicletta, in attesa che arrivasse dalla capitale la sedia a rotelle che aveva ordinato e che Clara portava insieme ai bagagli. Dirigeva con energici colpi di bastone e con improperi i progressi della casa, così occupato che l'accolse con un bacio distratto e dimenticò di informarsi sulla salute di sua figlia. Per Quella sera cenarono intorno a una rustica tavola di assi, illuminati da una lampada a petrolio. Blanca vide sua madre servire il cibo in piatti di argilla, fatti artigianalmente, così come facevano i mattoni, perché col terremoto era andata persa tutta la porcellana. E senza la nana a dirigere le faccende di cucina, erano diventati semplici sino alla frugalità e spartirono solo una densa minestra di lenticchie, pane, formaggio e marmellata di cotogne, che era meno di quanto lei mangiava in collegio nei venerdì di digiuno. Esteban diceva che non appena avesse potuto reggersi sulle gambe, sarebbe andato di persona alla capitale per comprare le cose più fini e costose con cui arricchire la sua casa, perché ormai era stufo di vivere come uno zotico a causa della maledetta natura isterica di quel paese del cavolo. Di tutto quello di cui si parlò a tavola, l'unica cosa che Blanca ricordò era che aveva cacciato Pedro Terzo Garcia con l'ordine di non mettere più piede nella sua proprietà perché l'aveva sorpreso a diffondere idee comuniste tra i contadini. La ragazza impallidì e le cadde il contenuto del cucchiaio sulla tovaglia. Solo Clara notò il suo turbamento perché Esteban dava stura al suo monologo di sempre sui malnati che mordono la mano che dà loro da mangiare. È tutto per colpa di quei politicanti del diavolo, come quel nuovo candidato socialista, un fantoccio che osa attraversare il paese da nord a sud sul suo treno di paccottiglia, rimbecillendo la gente con le sue fanfaronate bolsceviche. Ma stia attento a non avvicinarsi perché se scende dal treno ne faremo poltiglia, siamo già pronti. Non c'è un solo proprietario in tutta la zona che non sia d'accordo. Ah no, non permetteremo che vengano a predicare contro il lavoro sacrosanto, il giusto premio per chi si sforza, la ricompensa per chi va avanti nella vita. Non è possibile che i fannulloni abbiano quanto noi che lavoriamo dalla mattina alla sera e sappiamo investire il nostro capitale, correre i rischi, assumerci responsabilità, perché se guardiamo bene la storia della terra e di chi la lavora, la si può ribaltare. Perché qui l'unico che sa lavorare sono io. Senza di me questo era uno sfacelo e continuerebbe a esserlo. E nemmeno Cristo ha detto che bisogna dividere il frutto del nostro sforzo con fannulloni. E questo moccioso di merda, Pedro Terzo, ha il coraggio di dirlo nella mia proprietà. Non gli ho ficcato una palla in testa perché stimo molto suo padre e in un certo senso devo la vita a suo nonno, ma gli ho già detto che se lo vedo girare come un ladro da queste parti, lo riduco in poltiglia a fucilate. Clara non aveva preso parte alla conversazione, era occupata a togliere e mettere le cose sulla tavola e a sorvegliare sua figlia con la coda dell'occhio, ma mentre toglieva la zuppiera col resto delle lenticchie, udì le ultime parole della tirata di suo marito. Non puoi impedire che il mondo cambi, Esteban. Se non è Pedro Terzo García, sarà un altro a portare le nuove idee alle Tre Marie, disse. Esteban Trueba diede una bastonata alla zuppiera che sua moglie aveva in mano e la gettò lontano, spargendone il contenuto in terra. Blanca si drizzò inorridita. Era la prima volta che vedeva il cattivo umore di suo padre rivolto contro Clara e pensò che lei sarebbe entrata in uno dei suoi stati lunatici e che si sarebbe messa a volare dalla finestra, ma niente di tutto questo accadde. Clara raccolse i cocci della zuppiera rotta con la sua calma abituale, senza dar segno di udire gli insulti da marinaio che Esteban vomitava. Aspettò che finisse di brontolare, gli diede la buonanotte con un tiepido bacio sulla guancia. E uscì portandosi via Blanca per mano. Blanca non perse la tranquillità per l'assenza di Pedro Terzo. Andava ogni giorno al fiume e aspettava. Sapeva che la notizia del suo ritorno in campagna sarebbe prima o poi arrivata al ragazzo e il richiamo dell'amore l'avrebbe raggiunto ovunque fosse stato. E così infatti fu. Il quinto giorno vide arrivare un tipo stracciato che indossava una coperta invernale e un cappello dalla tesa larga. E si trascinava dietro un asino carico di utensili di cucina, pentole di peltro, teiere di rame, grandi marmitte di ferro smaltato, mestoli di tutte le dimensioni, tra uno sferragliare che annunciava il suo arrivo con 10 minuti di anticipo. Non lo riconobbe. Sembrava un vecchio miserabile, uno di quei malinconici viaggiatori che girano di porta in porta per la provincia con la loro mercanzia. Le si fermò davanti. Si tolse il cappello e allora lei vide i suoi begli occhi neri che brillavano in mezzo a una chioma e a una barba irsuta. L'asino si fermò a mangiucchiare l'erba col suo tramenio di pentole rumorose, mentre Blanca e Pedro saziavano la fame e la sete accumulate in tanti mesi di silenzio e di separazione, rotolando tra le pietre i cespugli e gemendo come disperati. Poi rimasero abbracciati fra le canne della riva. Tra il ronzio delle libellule e il gracidare delle rane, lei gli raccontò che si era messa bucce di banana e carta assorbente nelle scarpe per farsi venire la febbre e che aveva ingoiato gesso in polvere finché non le aveva fatto venire una tosse vera per convincere le monache che la sua inappetenza e il suo pallore erano sintomi sicuri della tisi. Volevo stare con te, disse baciandolo sul collo. Pedro III le parlò di quello che stava succedendo nel mondo e nel paese, della guerra che teneva soggiogata mezza umanità, in uno sbudellamento di mitragliatrici, in un'agonia di campi di concentramento, in un'alluvione di vedove e orfani. Le parlò dei lavoratori in Europa e in Nord America, i cui diritti venivano rispettati perché la moria di sindacalisti e di socialisti delle decadi precedenti aveva prodotto leggi più giuste e repubbliche come Dio comanda, in cui i governanti non rubano il latte in polvere dei sinistrati. Gli ultimi a renderci conto delle cose siamo sempre noi contadini, non ci interessa quello che succede altrove. Tuo padre qui lo odiano, ma ne hanno tanta paura che non sono capaci di organizzarsi per tenergli testa. Capisci, Blanca? Lei capiva, ma in quel momento il suo unico interesse consisteva nel respirare il suo odore di grano fresco, nel leccargli le orecchie, nell'affondare le dita in quella barba folta, nell'ascoltare i suoi gemiti innamorati. Aveva anche paura per lui. Sapeva non solo che suo padre gli avrebbe cacciato in testa la pallottola promessa, ma che qualunque proprietario della regione avrebbe fatto lo stesso con molto piacere. Blanca ricordò a Pedro III la storia del dirigente socialista che un paio d'anni prima percorreva la regione in bicicletta distribuendo volantini nelle tenute e organizzando i mezzadri finché i fratelli Sanchez non l'avevano preso, ammazzato a bastonate e impiccato a un palo del telegrafo in un crocicchio affinché tutti potessero vederlo. Era rimasto lì un giorno e una notte a dondolare contro il cielo finché non erano arrivati i gendarmi a cavallo e l'avevano tirato giù. Per stornare i sospetti avevano dato la colpa agli indiani della riserva, nonostante tutti sapessero che erano pacifici e che se avevano paura di ammazzare una gallina, a maggior ragione l'avevano per un uomo. Ma i fratelli Sanchez l'avevano dissotterrato dal cimitero e di nuovo ne avevano mostrato il cadavere, e questo era ormai troppo per essere attribuito agli indiani. Nemmeno per questo la giustizia osò intervenire e la morte del socialista venne rapidamente dimenticata. Possono ammazzarti, supplicò Blanca abbracciandolo. Starò attento, la tranquillizzò Pedro III. Non resterò a lungo nel medesimo posto, per questo motivo non potrò vederti tutti i giorni. Aspettami in questo stesso posto, verrò ogni volta che potrò. Ti amo, disse lei singhiozzando. Anch'io. Si abbracciarono di nuovo con l'ardore insaziabile proprio della loro età, mentre l'asino continuava a masticare l'erba. Blanca fece sì da non dover più tornare in collegio, provocandosi il vomito con salamoie calde, diarrea con prugne verdi e affanno, serrandosi la vita con una cinghia da cavallo, finché non acquisì fama di avere cattiva salute, che era proprio quanto andava cercando. Così bene imitava i sintomi delle più svariate malattie che avrebbe potuto ingannare un consulto di medici, e lei stessa era giunta a convincersi di essere molto malaticcia. Ogni mattina al risveglio faceva una revisione mentale del suo organismo per vedere dove le facesse male e quale nuovo malanno l'affliggesse. Imparò ad approfittare di qualsiasi circostanza per sentirsi malata, da una variazione di temperatura sino al polline dei fiori, e a trasformare ogni piccolo malessere in un'agonia. Clara era del parere che la cosa migliore per la salute era tenere le mani occupate, sicché ridimensionò i malesseri di sua figlia facendola lavorare. La ragazza doveva alzarsi presto, come tutti gli altri, lavarsi con acqua fredda e occuparsi delle sue faccende, che comprendevano insegnare nella scuola, cucire nel laboratorio, compiere ogni lavoro dell'infermeria, dal fare i clisteri sino a suturare ferite con ago e filo del laboratorio di cucito, senza che le servissero gli svenimenti alla vista del sangue né i sudori freddi quando doveva pulire un vomito. Pedro Garcia, il vecchio, che aveva già 90 anni e a fatica trascinava le sue ossa, condivideva l'idea di Clara che le mani sono fatte per essere usate. E fu così che un giorno in cui Blanca si stava lamentando di una terribile emicrania, la chiamò e senza preamboli le mise una pala di creta in grembo. Passò il pomeriggio ad insegnarle a modellare l'argilla per fare utensili da cucina senza che la ragazza si ricordasse dei suoi dolori. Il vecchio non sapeva che stava dando a Blanca quello che più tardi sarebbe stato il suo unico mezzo per vivere e il suo conforto nelle ore tristi. Le insegnò a far girare il tornio col piede mentre faceva volare le mani sulla creta molle per fabbricare anfore e brocche. Ma ben presto Blanca scoprì che le cose utili l'annoiavano e che era molto più divertente fare figure di animali e di persone. Col tempo si dedicò a modellare un mondo in miniatura di bestie domestiche e di personaggi intenti a ogni lavoro: falegnami, lavandaie, cuoche, tutti con i loro piccoli utensili e i loro mobili. Sono cose che non servono a niente, disse Esteban Trueba quando vide sua figlia all'opera. Cerchiamone l'utilità, suggerì Clara. Venne così l'idea del Natale. Blanca cominciò a produrre figurine per il presepe natalizio, non solo i re magi e i pastori, ma anche una folla di persone dei più diversi tipi e ogni specie di animali, cammelli e zebre dell'Africa, iguane d'America e tigri dell'Asia, senza tenere affatto in considerazione la zoologia propria di Betlemme. Poi aggiunse animali che inventava, attaccando mezzo elefante alla metà di un coccodrillo, senza sapere che stava facendo col fango le stesse cose che sua zia Rosa, che non aveva mai conosciuto, faceva col filo da ricamo sulla sua enorme tovaglia, mentre Clara disquisiva che se le follie si ripetono nella famiglia lo si deve al fatto che esiste una memoria genetica che impedisce che si perdano nell'oblio. I presepi affollati di Blanca divennero una curiosità. Dovette addestrare due ragazze per farsi dare una mano perché non ce la faceva a esaudire le richieste. Quell'anno tutti volevano averne uno per la notte di Natale, specialmente perché erano gratis. Esteban Trueba pensava che la mania della creta andava bene come divertimento da signorina, ma che se si fosse trasformato in un affare, il nome dei Trueba sarebbe stato associato a quello dei commercianti che vendevano chiodi da ferramenta e pesce fritto al mercato. Gli incontri tra Blanca e Pedro III erano distanziati e irregolari, ma proprio per questo più intensi. In quegli anni lei si abituò al timore e all'attesa. Si rassegnò all'idea che si sarebbero amati sempre di nascosto e smise di nutrire il sogno di sposarsi e di vivere in una delle casette di mattoni di suo padre. Spesso trascorrevano settimane senza che sapesse nulla di lui, ma improvvisamente appariva nella tenuta un postino in bicicletta, un evangelista che predicava con la Bibbia sotto braccio o uno zingaro che parlava mezzo pagano. Tutti così inoffensivi che passavano senza destare sospetti agli occhi inquisitori del padre. Lo riconosceva dalle sue pupille nere. Non era l'unica, tutti i mezzadri delle Tre Marie e molti contadini di altre tenute lo aspettavano pure loro. Da quando il giovane era perseguitato dai padroni, si era guadagnato la fama di eroe. Tutti volevano nasconderlo per una notte, le donne gli tessevano poncio e calzerotti per l'inverno. E gli uomini gli mettevano da parte la miglior acquavite e la miglior carne secca della stagione. Suo padre, Pedro II García, sospettava che suo figlio violasse il divieto dei Trueba e riconosceva le tracce che lasciava suo passaggio. Era diviso tra l'amore per suo figlio e il suo ruolo di guardiano della proprietà e inoltre temeva di riconoscerlo e che Esteban Trueba glielo leggesse in viso. Ma provava una segreta allegria attribuendogli alcune delle cose segrete che stavano accadendo in campagna. Ma non gli passava proprio per la testa che le visite di suo figlio avessero qualcosa a che vedere con le passeggiate di Blanca Trueba al fiume, perché questa eventualità non stava nell'ordine naturale del mondo. Non parlava mai di suo figlio se non in seno alla famiglia, ma si sentiva orgoglioso di lui e preferiva vederlo ridotto a essere un fuggiasco, piuttosto che uno dei tanti nel mucchio che seminava patate e raccoglieva povertà insieme a tutti gli altri. Quando ascoltava canticchiare qualche canzone di galline e volpi, sorrideva, pensando che suo figlio si era guadagnato più adepti con le sue ballate sovversive che con i suoi pamphlet del Partito Socialista che distribuiva instancabilmente. 6. La vendetta. Un anno e mezzo dopo il terremoto, le Tre Marie erano di nuovo la tenuta modello di prima. La grande casa padronale Era stata ricostruita come quella originale, ma più solida e con l'impianto di acqua calda nei bagni. L'acqua era come cioccolata chiara e talvolta apparivano persino dei girini. Ma usciva di un getto gaio e forte. La pompa tedesca era una meraviglia. Io giravo dappertutto senza altro appoggio che un grosso bastone d'argento, lo stesso che ho adesso e che mia nipote dice che uso non perché sono zoppo, bensì per dar forza alle mie parole brandendolo come un argomento contundente. La lunga malattia aveva intaccato il mio organismo e peggiorato il mio carattere. Devo ammettere che all'ultimo neppure Clara poteva frenare i miei attacchi d'ira. Un'altra persona sarebbe rimasta per sempre invalida a causa dell'incidente, ma io sono stato aiutato dalla forza della disperazione. Pensavo a mia madre seduta sulla sedia a rotelle che marciva viva e questo mi dava la tenacia per alzarmi e tentare di camminare, fosse anche stato a forza di imprecazioni. Credo che la gente avesse paura di me, Clara stessa, che non aveva mai temuto il mio cattivo carattere. In parte perché io badavo molto a non volgerlo contro di lei, era spaventata. Vederla timorosa di me mi faceva andare in bestia. A poco Clara stava cambiando. Aveva un aspetto stanco, notai che stava allontanandosi da me. Ormai non mi aveva in simpatia. I miei dolori non le facevano compassione, bensì le davano fastidio. Mi resi conto che evitava la mia presenza. Oserei dire che in quell'epoca si sentiva più a suo agio badando alle vacche con Pedro II che facendomi compagnia in salotto. Quanto più distante era Clara, tanto maggiore era il bisogno che sentivo del suo amore. Non era diminuito il desiderio che avevo nutrito per lei quando l'avevo sposata. Volevo possederla completamente fino al suo ultimo pensiero, ma quella donna diafana mi passava accanto come un soffio e anche se la immobilizzavo con due mani e la abbracciavo con brutalità, non riuscivo a imprigionarla. Il suo spirito non era con me. Quando cominciò a temermi, la vita divenne un purgatorio. Durante il giorno ciascuno era occupato con le sue faccende, tutte e due avevamo molto da fare, ci incontravamo solo all'ora dei pasti e in quei momenti ero io a sostenere la conversazione con lei, perché lei sembrava vagare tra le nuvole. Parlava assai poco e aveva perso quella risata fresca e insolente che era stata la prima cosa a piacermi in lei. Ormai non gettava più la testa all'indietro, ridendo a gola spiegata. Sorrideva appena. Pensai che l'età e il mio incidente stavano separandoci, che era stufa della vita matrimoniale. Cose simili succedono a tutte le coppie. Io non ero uno di quegli amanti delicati che regalano fiori di continuo e dicono cose carine. Ma feci il possibile per avvicinarmi a lei. Dio mio, se lo feci. La trovavo nella sua stanza, intenta sui suoi quaderni, dove annotava la vita, o al tavolino a tre gambe. Mi ero sforzato di condividere questi aspetti della sua esistenza, ma a lei non faceva piacere che si leggessero i suoi quaderni e la mia presenza le interrompeva l'ispirazione quando conversava con gli spiriti, sicché dovetti smettere. Lasciai perdere anche il proposito di annodare un buon rapporto con Blanca. Fin da piccola mia figlia era strana e non fu mai la bimba affettuosa e dolce che avrei desiderato. Sembrava proprio un'istrice. Da quando me la ricordo è stata sempre aspra con me e non deve avere superato il complesso di Edipo perché non l'ha mai avuto. Ma era già una signorina. Sembrava intelligente e matura per la sua età. Era molto attaccata alla madre e pensai che avrebbe potuto aiutarmi e feci in modo di conquistarmela come alleata. Le facevo regali, cercavo di scherzare insieme a lei, ma mi sfuggiva lo stesso. Ora che sono molto vecchio e posso parlarne senza perdere la testa per la rabbia, credo che la colpa di tutto fosse il suo amore per Pedro III Garcia. Blanca era incorruttibile. Non chiedeva mai nulla, parlava meno della madre e se io la costringevo a darmi un bacio di saluto, lo faceva così di controvoglia che mi doleva come uno schiaffo. Cambierà, cambierà quando torneremo alla capitale e faremo una vita civile, mi dicevo allora. Ma né Clara né Blanca mostravano il minimo interesse per lasciare le Tre Marie. Anzi, ogni qualvolta io alludevo alla cosa, Blanca diceva che la vita di campagna le aveva restituito la salute, ma che non si sentiva ancora forte e Clara mi ricordava che c'era molto da fare in campagna, che le cose non potevano essere lasciate a metà. Mia moglie non sentiva nemmeno nostalgia per le raffinatezze cui era stata abituata e il giorno che arrivò alle Tre Marie il carico di mobili e di articoli domestici che avevo ordinato per farle una sorpresa, si limitò a trovare il tutto molto carino. Io stesso dovetti dare disposizioni su dove mettere le cose perché sembrava che a lei non gliene importasse niente. La nuova casa si rivestì di un lusso che non aveva mai avuto, neppure negli splendidi giorni prima di mio padre che l'aveva rovinata. Arrivarono grandi mobili coloniali di quercia rossa e di noce intagliati a mano, pesanti tappeti di lana, lampadari di ferro e rame sbalzato. Ordinai alla capitale un servizio di porcellana inglese dipinta a mano, degna di un'ambasciata, servizi di bicchieri di cristallo, 4 casse piene di ninnoli, lenzuola e tovaglie di lino, una collezione di musica classica e leggera col suo moderno grammofono. Qualunque donna si sarebbe entusiasmata a quella vista e sarebbe stata occupata per molti mesi a sistemare la sua casa, meno Clara, che era impermeabile a quelle cose. Si limitò ad addestrare un paio di cuoche e a istruire qualche ragazza figlia di mezzadri affinché servissero in casa e non appena si trovò libera dalle casseruole e dalla scopa, tornò ai suoi quaderni dove annotava la sua vita e i suoi tarocchi nei momenti di ozio. Passava la maggior parte del giorno nel laboratorio di cucito, nell'infermeria e nella scuola. Io la lasciavo fare perché queste faccende davano un senso alla sua vita. Era una donna caritatevole e generosa, ansiosa di rendere felice chi le stava intorno. Tutti, meno me. Dopo la rovina ricostruimmo l'emporio e per accontentarla soppressi il sistema dei foglietti rosa e cominciai a pagare la gente in contanti perché Clara diceva che questo permetteva loro di comprare al villaggio e di risparmiare. Non era vero. Serviva solo a far andare gli uomini a ubriacarsi alla taverna di San Lucas e a spingere nell'indigenza le donne e i bambini. Per questo tipo di cose litigavamo molto. I mezzadri erano la causa di ogni nostra discussione. Beh, non di tutte. Discutevamo anche della guerra mondiale. Io seguivo i progressi delle truppe naziste su una mappa che avevo attaccato alla parete del salotto mentre Clara sferruzzava calzerotti per i soldati alleati. Blanca se ne stava con la testa tra le mani, senza capire la causa della nostra passione per una guerra che non aveva niente a che vedere con noi e che si svolgeva dall'altra parte dell'oceano. Mi pare che sorgessero dei malintesi anche per altri motivi. In realtà, ben poche volte eravamo d'accordo su qualcosa. Non credo che la colpa di tutto fosse il mio cattivo carattere, perché io ero un buon marito, nemmeno l'ombra dello scapestrato che ero da scapolo. Lei era l'unica donna per me. Lo è ancora.